America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We come together at a historic time. As has already been noted, the changes that I announced to US policy toward Cuba mark the beginning of a new relationship between the people of the United States and the people of Cuba. Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, ha annunciato ieri la rimozione di Cuba dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo. Beh, era una notizia attesa, nel senso che già durante il vertice di sabato scorso a Panama con Raúl Castro avevamo capito che questa rimozione era nell'aria, però è avvenuta ieri, quindi il percorso di avvicinamento verso la normalizzazione dei rapporti con Cuba sta procedendo abbastanza rapidamente. L'aver rimosso Cuba da questa lista spiana la strada per l'apertura poi anche di una ambasciata, di una sede diplomatica. A Washington le riunioni di primavera del Fondo Monetario Internazionale sono già partite e c'è stata proprio questa mattina una conferenza stampa di Olivier Blanchard che ci ha dato qualche numero. Sentiamolo. What's happening is the decline in the price of oil is as we called it a shot in the arm. It's very much that it increases the real income of people, decreases costs, it's good. Ecco, Olivier Blanchard è il capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Nella presentazione del World Economic Outlook ha menzionato anche un documento allegato, un documento che mette in allarme, che afferma che i paesi industrializzati, ma anche i paesi emergenti, hanno tre sfide importanti davanti a loro e che dovranno superare, altrimenti non si tornerà a crescere, soprattutto non si colmerà il gap dei salari. Un invecchiamento della popolazione, una caduta della produttività e una deflazione, cioè una caduta della domanda e dunque i prezzi che cadono. In tutto questo si parla molto di salari che non riescono a recuperare. E allora vi racconto una storiella molto divertente, perché abbiamo saputo ieri che Dan Price, fondatore nel 2004 a 19 anni della Gravity Payments, ha annunciato che aumenterà il salario minimo dei suoi dipendenti, anche gli usceri, a $70,000. Ha tagliato il suo stipendio da 1 milione a $70,000, ha destinato i profitti di 2,2 milioni di dollari a colmare questo gap e nel giro di 3 anni coloro che guadagnano oggi mediamente $48,000 arriveranno a $70,000 e ci saranno la bellezza di 80 persone sui 120 occupati che vedranno il loro stipendio quasi raddoppiato. Ecco, con me ai microfoni di America 24 Marco Valsania, che è a Washington proprio per seguire il Fondo Monetario Internazionale. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Come l'hanno presa al fondo questa idea di questo signor Dan Price, giovanissimo peraltro, perché ha 29 anni, che vuole fare il salario minimo a $70,000, ha preso in contropiede persino Barack Obama. Ma si dice che sembra più una boutade che altro, è difficile immaginare che questo possa essere un modello per un'azienda di successo, poter diciamo dedicare i profitti a simili aumenti salariali e poi a quel punto vengono a mancare la possibilità di investire, la possibilità di crescere, che è un po' il nodo centrale che preoccupa oggi il Fondo Monetario, come ricordavi anche tu prima. Ecco, tu hai sentito Olivier Blanchard in conferenza stampa ieri mattina, quali sono le sue previsioni di crescita globale? Qual è il polso dell'economia globale? Il polso c'è, l'economia globale è in una discreta condizione di salute secondo Blanchard, ma questo non significa che le sfide siano risolte, anzi la diagnosi è che si tratta di una crescita uneven, di una crescita molto diseguale, con forze molto complesse, come la definisce Blanchard, all'opera, che rendono difficili trovare delle formule uniche, valide per tutte le regioni, per tutti i paesi, per garantire, per sostenere questa crescita. Quindi Blanchard ha fatto un appello di fatto a guardare con attenzione a quelle che sono le misure necessarie per sostenere la crescita in futuro, crescita sia nel breve termine che nel lungo termine, proprio per i problemi che ricordavi tu di invecchiamento della popolazione e di calo della produttività. Ecco Marco, e parlando dell'Italia, ha dato qualche messaggio in relazione, abbiamo dei dati per il nostro paese freschi? I dati sull'Italia sono di una crescita, come per il resto dell'Europa, leggermente migliorata, uno 0,5% quest'anno, ma rimaniamo comunque fanalino di coda tra i grandi paesi dell'Unione Europea. Scusa Marco, ti fermo perché 0,5% contro invece un'attesa di crescita dello 0,7% del governo, esatto, quindi come le riconciliamo queste cose? Esatto, rimane, è leggermente migliorata questa previsione di crescita rispetto alle previsioni precedenti del fondo, ma rimane sempre inferiore a quella, alle previsioni che fa il nostro governo. Quindi diciamo così che Blanchard ha dato così un taglio all'eccessivo forse ottimismo che può esserci in Italia di una facile accelerazione della crescita. Ha anche dato un altro messaggio che riguarda l'Italia, cioè un messaggio preoccupato sulla situazione delle banche. Di fatto, in una frase molto tranchante, ha detto: il problema dell'Italia sono le banche, perché il quantitative easing dell'Unione Europea ha bisogno di meccanismi di trasmissione per essere efficace, e la debolezza bancaria è un ostacolo alla trasmissione degli effetti positivi del quantitative easing, e l'Italia si trova in una situazione dal punto di vista delle banche particolarmente debole, più debole rispetto a quasi tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, e ci prepariamo a qualche giorno italiano, giornate italiane, e dunque vi propongo Spark the Fire di Gwen Stefani, che è la canzone spot della 500, la 500 in America, e mostra un viaggio on the road di questa 500 nelle città americane, pensate, che hanno il nome italiano: Florence, Rome, Naples, Genoa, Palermo, ce ne sono a decine e decine. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento. A domani. Goodbye and get going.